America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, ci sono molte notizie, devo dire, che si affollano oggi di vario genere. C'è il presidente Barack Obama che farà un discorso molto importante sui paesi arabi, si rivolgerà al mondo dell'Islam, cercherà di portare un messaggio nuovo e un discorso svolta su cui abbiamo avuto alcune anticipazioni economiche per ora che puntano soprattutto ad aiutare Egitto e Tunisia. Questo è il primo argomento. Continua la polemica su Dominique Strauss-Kahn, il direttore del Fondo Monetario Internazionale incriminato per violenza sessuale. Sembra che oggi potrà essere rimesso a piede libero, almeno ci sarà una richiesta dei suoi avvocati, propongono $1 milione di cauzione e un braccialetto che può consentire di monitorarlo 24 ore su 24. Beh, insomma, devo dire che tirarlo fuori da Rikers Island in attesa del processo non sarebbe una cosa indegna, visto che è concesso a molti criminali comuni americani. Ma la questione più importante per noi riguarda quel che è successo ieri sui mercati finanziari. Si è chiuso l'accordo per rifinanziare il debito di Chrysler. Sergio Marchionne, l'amministratore delegato, è riuscito a portare a casa un successo. Potrà ripagare il debito del governo americano già la settimana prossima. Vi ripropongo una domanda che gli feci appena qualche settimana fa, quando si partì con questa avventura per raccogliere la bellezza di quasi $7 miliardi. Dottor Marchionne, ci saranno 200-225 finanzieri oggi. C'è l'idea che questa cosa andrà bene? Vale. Mai cacciare previsioni in processi simili. Abbiamo cominciato ieri, siamo qui a New York, ritorneremo la settimana prossima per la seconda parte. Ci vuole il tempo, facciamo i conti, vediamo quanta gente vuole investire in Chrysler, no? Sergio Marchionne, quando l'ho sentito, lo avete sentito voi stessi dalle sue parole, era prudente, diceva: insomma, adesso stiamo cominciando a fare il roadshow, cominciamo a spiegare quel che vogliamo fare, speriamo che il mercato ci segua. Il mercato ha seguito Marchionne, l'emissione è andata bene, è stata sottoscritta per intero, c'è stato soltanto un piccolo cambiamento, cioè i titoli di credito garantiti che avrebbero dovuto contribuire per $3.5 miliardi al rifinanziamento complessivo, vale a dire i prestiti delle banche per intenderci, sono stati diminuiti a $2.5 miliardi, mentre le obbligazioni garantite con scadenza 8-10 anni sono state invece aumentate a quota $3.5 miliardi. Il totale che si incassa è lo stesso, ma c'è stata una redistribuzione di questi ammontari. Perché spostare gli equilibri? Devo dire, ho parlato con alcune persone a Wall Street ieri, prima ancora che questa cosa si chiudesse, e ho raccolto alcune informazioni, anzi le abbiamo pubblicate questa mattina sul nostro giornale, abbiamo avuto appunto delle anticipazioni in esclusiva proprio sulla strutturazione di questo debito. E dunque, parlando con finanzieri americani, ho capito, mi hanno spiegato che spostare gli equilibri delle varie tranche è normale. Perché? Perché si parte con una certa strutturazione, dopodiché si verifica la reazione alla domanda a seconda delle strutturazioni offerte, poi normalmente si cambia l'allocazione. Dunque ci si è accorti che il mercato obbligazionario della sottoscrizione di investitori che volevano sottoscrivere le obbligazioni era molto molto molto forte, c'era una domanda enormemente superiore all'offerta. Quella invece delle banche era pur sempre una domanda forte, ma meno forte dell'altra, e dunque si è deciso di riallocare la disponibilità più sul mercato obbligazionario. Ecco, la novità invece è che il prezzo di collocamento sul mercato doveva essere di un certo livello, e cioè di circa 4 punti percentuali al di sopra del LIBOR e di 4,25 a seconda di condizioni e scadenze, perché ci sono una serie di tecnicismi, non voglio entrare adesso nel dettaglio, ma per esempio ci sono delle opzioni di vendita, ci sono appunto delle scadenze diverse e così via, così via. Questo prezzo 4%, 4,25% al di sopra dell'Libor, che era il prezzo di offerta originaria, è stato aumentato. Adesso si stanno ancora discutendo gli ultimi dettagli, ma dovrebbero essere a quota 4,50 e 4,75 rispetto all'emissione originaria. Dunque una quarantina di punti, una cinquantina di punti in più rispetto all'offerta. Perché questo? Beh, anche questo mi è stato spiegato. Perché la gente non si fidava più di Chrysler? Perché pensavano che ci fossero dei problemi? Non è andata esattamente così. Quel che è successo è che Sergio Marchionne ha cercato, come sua abitudine, e devo dire spesso gli va molto bene, di premere forse al di là di quel che il mercato era pronto ad assorbire. E cioè ha chiesto alle banche di ridurre il pricing, quindi di ridurre il tasso di interesse offerto, al di sotto di quello che le banche consigliavano e che sapevano essere la norma di mercato. Ecco, su questa c'è stata una reazione piuttosto dura degli investitori, ma Marchionne ha preferito partire molto basso per poi accomodare il mercato laddove la domanda e l'offerta si stabilizzavano. Prima di passare al nostro finale vorrei aggiungere un paio di dettagli sulla questione Nord Africa. Gli Stati Uniti oggi proporranno, col discorso del presidente Barack Obama, di cancellare $1 miliardo di debito dell'Egitto. Proporranno un modello che dovrebbe funzionare un po' per tutti, e cioè aiuti in cambio di riforme. Ci sarà sempre per l'Egitto un altro $1 miliardo in garanzie per emissioni debitorie sui mercati, emissioni debitorie che serviranno per finanziare progetti infrastrutturali. L'America dunque si muove, vuole coinvolgere le organizzazioni multilaterali. Domani vi parlerò più a lungo del discorso, perché Barack Obama questo discorso lo pronuncerà oggi, letteralmente fra poche ore, fra tre ore e mezza. È dunque un messaggio che si aspettava da tempo, quello che punta sullo sviluppo economico, fondamentale per accompagnare queste riforme in corso, queste ambizioni a introdurre un sistema democratico con qualche cosa di concreto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Neil Young, il grande Neil Young, si prepara a pubblicare il 14 giugno una raccolta che comprende alcuni brani inediti del suo archivio live. L'album si intitola A Treasure e contiene 12 pezzi, tra cui questo, Amber Jean, che vi faccio ascoltare. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.